solo e stanco a letto, presto se ne va. Ben tornato Falco, benvenuto. Buongiorno. Grazie, buongiorno. Io ridevo della pulizia dei filtri, scusatemi. Adesso scende con le sue mani fredde su di me. Recupero perché non serietà. Li ha fatti neanche no, lui. Perché non li ho fatti neanche io. Vedi? Il ciabattino, no, com'è che fa lei? La no, moglie del ciabattino va con le scarpe rotte, ma anche lui, insomma. Ho sentito la parola refrigerazione. Noi non siamo della verdura. Noi qual è la parola giusta che va utilizzata? Ma guarda, che sta, guarda come ci bacchetta stamattina, è proprio sul piede di guerra Falco, non solo con le direttive europee. Ha messo su una crestina. Ha messo su una crestina, niente male. Ma buongiorno anche ragazze, Gina, come siete belle da sentire tutte le mattine. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Ogni favola è un gioco che si fa. Beh, ogni favola è un gioco, ma se cuore e denari, stammi attenta, Deborah. Forse sono, è un gioco. Guarda, sull'attenti già. Quale sì. Gioco sarebbe secondo te? Briscola no. No, scopone scientifico neanche. A me piace tantissimo Scala 40, ma qua stiamo andando sulle carte. Io e ti forse oriento tu intendevi su un gioco da tavola, da società, e penso che potrebbe essere Monopoli. Ah, perché? Perché lo scopo del gioco è di trarre profitto, affittando, comprando, vendendo le proprietà che si trovano lungo il percorso ottimo. Della plancia di gioco, sino a diventare quello più ricco, no? Il monopolista. Sì. Ma in questo percorso il giocatore si trova ad affrontare imprevisti e probabilità, proprio come succede nella vita, che ogni giorno ci mette di fronte a sfide, problemi, occasioni che ci spingono, ci costringono a misurarci, a metterci alla prova. E insomma, questo lo sappiamo bene, fa parte del gioco, è come si dice nelle regole. Quello che cambia è la risposta, la reazione alla situazione. Allora, come reagite voi di fronte agli imprevisti, ai problemi, ai cambiamenti? Li considerate come un'opportunità? Riuscite a considerarli meglio come un'opportunità o tendete a viverli come una minaccia? Restate perché oggi vi proponiamo un mini corso di resilienza. Attenzione, non è sinonimo di resistenza come ci spiegheranno i nostri esperti, ma è la capacità di fronteggiare in maniera efficace gli eventi critici che incontriamo nel nostro cammino. Allora ci state? Bene, andate sulla pagina di Cuore Denari e compilate il test che ha preparato per noi il dottor Michele Cucchi, psichiatra, direttore sanitario del Centro Medico Sant'Agostino, che è qui già in studio con noi, lo salutiamo già. Buongiorno. Sì, direi. Buongiorno a tutti. E chiamateci se non potete andare sulla pagina di Cuore Denari, e quindi fatelo magari dopo, nel pomeriggio. Provate a immaginarvi davanti a un problema e cercate di, come si dice, prendere consapevolezza del vostro atteggiamento. Cosa fate? Entrate in modalità di attacco? Prendete tempo per riflettere e capire? Oppure chiedete consiglio, amici, persone di fiducia, come facciamo io e Deborah, no? Deborah, cosa dici? Altro che farò bene, farò male. Reciproco continuo. Oppure tendete a minimizzarlo, superando così la tensione emotiva che potrebbe generarvi. 800 24 00 24, diteci come vi mettete di fronte ai problemi, che cosa fate per uscirne. Oltre al Monopoli c'è un mondo che ogni giorno presenta rischi, imprevisti, cambiamenti a cui bisogna saper rispondere con delle scelte precise, sapendo cogliere anche le opportunità. Questo mondo è quello dei mercati finanziari e della finanza. Oggi è giovedì, come sempre torniamo a parlarne a partire dalle 11.45 nella nostra scuola di risparmio Investire Informati. 800 24 00 24, intanto cominciate anche a prenotare i vostri interventi, i temi sono tanti, torna a preoccuparci la Grecia e tassi di interesse sul mercato obbligazionario che sono sempre più bassi, ma hanno avuto un sussultino negli ultimi giorni. Che cosa è successo? Ne parleremo più tardi. Stress, stress, stress. Allora, insieme a Debora ieri nella puntata di Cuore Denari Expo abbiamo parlato di stressati e sono arrivati tanti messaggi, racconti, testimonianze, richieste di aiuto, ma anche tante soluzioni e consigli. Allora abbiamo così colto il desiderio, anche la voglia di condividere, di avere e di parlare anche di quella fatica con cui ci misuriamo ogni giorno, perché siamo tutti impegnati a superare, ad affrontare sfide, contrattempi, delusioni, problemi, ma come nel gioco di Monopoli, casella dopo casella noi dobbiamo andare avanti. Spesso ci sentiamo inadeguati, ce l'avete raccontato anche via mail, pensiamo di non farcela, abbiamo la sensazione che ci manchino le energie, le competenze. Questo necessariamente, naturalmente, produce stress che ci rimanda alla casella di partenza o ci chiude in gabbia. Nel gioco di Monopoli c'è anche la prigione. Per questo oggi vogliamo provare a cambiare un po' le regole del gioco, a cambiare l'atteggiamento che abbiamo nell'affrontare i problemi, i contrattempi, le sfide che la vita ci mette davanti ogni giorno. 800 24 00 24 e scrivetevi al nostro numero verde per questo mini corso di resilienza. Qui in studio, come anticipato, c'è il dottor Michele Cucchi, ma abbiamo anche un'altra amica. È venuta a darci manforte, ma non solo, a portarci tutta la sua energia che noi non disdegniamo mai, la dottoressa Maria Giovanna Luini, medico, comunicatore scientifico, senologa all'Istituto Europeo di Oncologia, quindi allo IEO, e anche scrittrice. È una aspetto che ci piace tantissimo questo. Buongiorno anche a Teresa. Me. Buongiorno, buongiorno a tutti. Tra l'altro, scrivere aiuta, è una palestra di resilienza? Di resilienza tantissimo, è una palestra anche di energia, una palestra di recupero di se stessi. Quindi di fronte ai problemi potrebbe essere utile anche sono prendere convinta la penna. Che lo sia, scrivere così come esercitare qualsiasi gesto di creatività. Dottor Cucchi, nessuno conosce le proprie possibilità finché non le mette alla prova. Non è mia tanta saggezza, ma è una massima di Publilio Sirio, che è vissuto nel primo secolo avanti Cristo. Anch'io non lo conoscevo, l'ho trovato. È autore di una raccolta di citazioni e aforismi intitolata Sentenzie. Quindi il nostro Publilio, in tempi non sospetti, invitava a considerare i problemi come un'opportunità per metterci un po' alla prova, no? Per testare le nostre possibilità. Possiamo chiamarle energia, forza interiore, coraggio, determinazione. Insomma, secondo me, se fosse vissuto ai giorni nostri, il nostro amico Publilio avrebbe scritto un trattatello sulla resilienza. Ma dato che noi oggi ci siamo iscritti a questo mini corso sulla resilienza, ma che cosa stiamo imparando? Che cos'è la resilienza? Beh, è una capacità, una proprietà meccanica, è un termine che la psicologia prende in prestito dall'ingegneria e dalla fisica. Per i metalli la capacità di assorbire l'energia della deformazione elastica, in sostanza è la capacità di non rompersi. In psicologia è la capacità dell'individuo di assorbire un urto, un cambiamento, un evento senza rompersi. Se dovessi specificare che cos'è per un essere umano, è una capacità evolutiva, è qualcosa che cresce con noi. Chi non è resiliente è fragile, quindi si rompe. Quindi il cristallo è, per esempio, un qualche cosa che ispira fragilità ed è fragile effettivamente. Dottor Cucchi, sulla pagina di Cuore Denari lei ha ci ha aiutato, ha scritto un test per noi. È un test che non prevede dei punteggi, cioè compilandolo, andandolo, no, a fare, non è che abbiamo una sorta di diagnosi, ma è stato strutturato in modo da offrirci l'opportunità di capire qualche cosa di più del modo con cui noi affrontiamo le sfide quotidiane, piccole e grandi. Ci dia un'interpretazione del test, come possiamo utilizzarlo? Sì, è una suggestione che ci permette di sottolineare come la resilienza, come ciascuno abbia la sua resilienza. Ci sono varie vie verso il risultato della resilienza, cioè superare l'urto e sfruttare l'energia che l'urto provoca in noi, che è quello che succede nei materiali, che si scaldano sotto una pressione, sotto una trazione, e convertire questa energia in una spinta positiva, in un'evoluzione, in una crescita. E quindi il test ha l'obiettivo di mettere a fuoco quali sono le varie caratteristiche che ciascuno di noi può ritrovare in sé, Intanto, dato che vorremmo andare passo a passo, provate a pensare come vi ponete di fronte ai problemi, se cercate aiuto, se andate a chiedere ad un amico, se fate un po' quello che fa lo struzzo e rimanda. Intanto, dottor Cookie, noi possiamo dire che la resilienza non è sinonimo di resistenza, quindi di mi spezzo ma non mi piego. Anzi, sembra sia un po' il suo opposto, il suo contrario. Mi piego ma non mi spezzo. Proviamo a fare un esempio concreto, magari individuando alcuni passaggi in modo da capire bene la differenza tra questi due modi di essere e di affrontare la vita. E vorrei dire anche le piccole avversità, perché il termine resilienza è sempre stato abbinato a grandi traumi, grandi lutti, malattie, no? Eventi che veramente ti sconquassano la vita. Ma c'è anche una resilienza, devo dire, quotidiana, low cost anche. Beh, assolutamente, assolutamente. Precisiamo, allora, la resistenza è la capacità di resistere a uno sforzo il più a lungo possibile. Quindi è quella che i maratoneti, diciamo, dilettanti mettono in atto per arrivare fino in fondo e poi crollano sotto l'onda di un infortunio muscolare. Ce l'ha un po' lei con i maratoneti? Assolutamente no, anzi, ha pensato subito agli infortuni. Poveri maratoneti. Tu hai fatto questa associazione. Invece il maratoneta professionista ha il problema di finire la maratona, perché quando si rende conto che la gara non sta andando come doveva andare, cercando la gara perfetta, si ritira, non va incontro al problema della resistenza. Un altro termine che fa parte un po' del linguaggio quotidiano per descrivere la fatica sotto gli sforzi è la tenacia. Che è anche questo, in questo caso, un altro termine che usiamo in psicologia per descrivere il nostro comportamento, ma che è anche questo un termine rubato dall'ingegneria dei metalli, ed è la capacità invece di resistere dall'inizio, sin dall'inizio, alla deformazione, e quindi produce come risultato su di noi, sul corpo, la rottura. Quindi più resisto, sono tenace nel momento in cui resisto senza fare un colpo, senza battere ciglio, ma poi mi rompo. Se volessimo fare degli esempi, anche per ricordare che la resilienza non è il carattere forte che magari un po' volgarmente l'uomo della strada pensa di vedere raffigurare, e non è neanche quello che non soffre, perché il resiliente soffre. Purtroppo è questo la chiave del cambiamento, e diciamo l'opportunità va colta nella sofferenza, un po' come quando andiamo in palestra. Se noi andiamo in palestra, pretendessimo di non soffrire, finire la sessione avendo ottenuto un risultato, avremmo un problema rispetto alla nostra aspettativa che non verrebbe ripagata. Invece la sofferenza ci fa, dovrebbe suggerirci che siamo sulla strada giusta del cambiamento. Facendo un paio di esempi, si può pensare a quella che è la donna che è super performante, no? Riesce a tenere botta un po' a tutto, riesce a resistere al lavoro che ti mette sotto pressione, alle richieste delle persone, al lavoro, e come è al lavoro sarà così magari anche nella sua vita professionale, nella sua vita privata, ed è una persona che viene giudicata, se chiedessimo un parere a chi sta intorno a lei, è una persona molto performante, che fa tesoro e utilizza costantemente alcune procedure che l'aiutano a essere performante, per esempio la precisione. Sì. Però è una persona che tira e a un certo punto esaurisce le energie, e quindi va incontro a quello che avevamo definito, no? Il calo della resistenza, e si rompe come? Non riuscendo a reagire più, è una persona resistente ma non resiliente. Un altro esempio che ci porta fuori strada pensando a chi potrebbe essere resiliente sono per esempio quei manager che gridano, che si impongono con l'aggressività, che amano dire questa cosa la gestisco io, poi magari davanti a un piccolo incidente, davanti a una piccola operazione odontoiatrica li troviamo in lacrime, perché non sanno confrontarsi, quindi vendono un'energia fatta di aggressività, ma in realtà è proprio un po' uno scudo per nascondere la loro mancanza di resistenza. Dottoressa Luini, qual è il suo approccio nella vita di fronte alle avversità? E così lo chiediamo ai nostri amici da casa: come vi tirate fuori dalle situazioni difficili, perché non vi piacciono, perché vi fanno soffrire, perché le sentite come un'ingiustizia? Ho imparato ad accettarle, ho scoperto grazie alle prove della vita, quindi alle avversità, di essere molto resiliente. Credevo di essere resistente in realtà, probabilmente anche perché negli anni recenti ho studiato e applicato anche le filosofie orientali, insomma ho aperto molto la mia mente e il mio cuore a tutto ciò che è mistero e anche concentrazione amorevole su me stessa e sugli altri. Quando c'è un'avversità cerco di fare del mio meglio, non ho una formula perché non esiste una formula, sono molto emotiva, capita che mi spaventi, che pianga, che soffra, ma anche che reagisca con rabbia, però non perdo mai la fiducia in quell'energia che so di possedere, quindi so di essere resiliente, soprattutto so che la sofferenza non è debolezza. La sofferenza è vero che costruisce, non ho nessuna voglia di provare sofferenza, ma so che quando arriva ha un senso e mi porta un po' più in là. Dottoressa Luine, lei come senologa incontra ogni giorno tante donne, sono donne, tutte le volte che andiamo a fare un controllo abbiamo paura, e comunque varchiamo quella soglia e ci mettiamo lì davanti al medico e aspettiamo, no? Sì. Le donne, secondo la sua impressione, secondo me, noi sappiamo che tendono a affrontare i problemi in modo diverso agli uomini, ricorrendo più al supporto sociale o gestendo le emozioni negative, mentre magari gli uomini tendono a concentrarsi maggiormente sulla soluzione del problema in sé. Le donne che lei incontra, e quindi sono donne non necessariamente malate, donne che hanno comunque che si stanno sottoponendo dei controlli, ma anche donne che ricevono una diagnosi, si piegano, si spezzano, fanno un po' Fanno un po' e un po'. La cosa che mi spaventa di più nel primo incontro con una donna, per esempio, che ha avuto una diagnosi di malattia o di sospetto di malattia, è che mi dica mi spezzo ma non mi piego. Io sta cosa del mi spezzo ma non mi piego non l'ho mai capita, non l'ho mai neanche amata. Piegarsi è un processo reversibile. Chi si piega poi si ritira su. Spezzarsi non è che poi non sia compatibile con un ricostruirsi, però è più difficile. Le donne reagiscono in modo molto vario, hanno sempre una bella energia che di solito è l'amore, l'amore per ciò che hanno intorno, l'amore per ciò che vogliono fare. Ho molta paura delle reazioni tra virgolette forti. Quando una donna arriva e mi dice no, io non piango, no, io non sto provando paura, no, io tanto ce la farò, capisco che lì il trauma, soprattutto se il trauma è una diagnosi di tumore, sta picchiando fortissimo e lei sì, rischia di spezzarsi. 800 24 00 24, abbiamo bisogno dei vostri interventi, dei vostri racconti, vogliamo confrontarci con voi, vogliamo trovare, non dico delle soluzioni, ma dei percorsi. Dove andiamo, Deborah? Allora, ho visto già dove vuoi andare tu. E io invece vado a Sondrio, sai che cosa ti dico? Vado da Marco perché abbiamo anche Paola di Ancona, per cui io ho sempre una certa preferenza, chissà come me, per i marchigiani. Però cominciamo con Marco stamattina. Marco, benvenuto, perché si è messo in coda per primo. Marco, benvenuto. Ah, ok, sono il primo, bene. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, stavo spiegando alle vostre collaboratrici che ho delle reazioni volute, quindi pensate, e delle reazioni invece proprio fisiche, e quindi volevo capire un po' anche questo aspetto. Per quanto riguarda le reazioni, quelle fisiche, tante volte proprio mi viene da voler riposare, di mandare la questione, e veramente mi prende una sonnolenza veramente non gestibile, insomma devo dormire. Per quanto riguarda invece le reazioni volute, prima stavo sentendo che parlavate del fatto di scrivere, ecco, questo io lo faccio spesso, e disegno anche, cioè tendo a schematizzare anche per capire quali possono essere le persone che posso coinvolgere nella risoluzione di questa problematica. Cioè, nel tempo ho capito comunque che qualsiasi problema, di qualsiasi entità, comunque comporta il coinvolgimento non solo mio, ma di anche altre persone. Certo. E quindi cerco veramente di essere il più possibile trasparente con gli altri, e quindi veramente anche esprimere la mia difficoltà. Anche questo aiuta. Prima dei mercati, dottor Cucchi, che aspetti ha colto di Marco, che ci ha descritto una reazione dalla parte proprio del corpo e una invece più emozionale, emotiva, relazionale? Beh, ci ha detto un sacco di cose interessanti. La reazione del corpo ci sta, perché alcune persone davanti a una minaccia hanno due possibilità di reagire. Chi ha una modalità di attacco, chi ha una modalità freezing, di fuga. Alcune persone vivono quindi la sensazione di sonnolenza anche nella fase di ansia acuta. Peraltro uno stress prolungato, quello quindi che non ci permette di risolvere proattivamente la minaccia, produce una reazione che è per esempio quella del corpo che ci segnala attraverso la sonnolenza che ha bisogno di riposare. La scrittura, quindi ci sta, è fisiologico. Ci sta. La scrittura, è così come anche il tentativo di schematizzare, sono due cose che possono servire in questo modo: da un lato a rilassarsi e quindi a trovare uno spazio per la riflessione, dall'altro a vedere le cose dall'alto. Noi tutti i giorni viviamo sempre dentro il problema, come se nuotassimo sempre con la testa sott'acqua. Quando ci troviamo davanti a un problema, allo scoglio, siamo costretti a mettere la testa fuori dall'acqua e vedere dove siamo, e questo ci dà una prospettiva che spesso è una chiave che ci fa capire come ci stiamo perdendo in un bicchiere d'acqua, magari, o comunque identifica più facilmente la soluzione, la strada. 800 24 00 24, ci sono i mercati. Vogliamo però leggere il messaggio di Stefano. Il motto che ha accompagnato la nostra resilienza è stato "teniamo botta". È servito a farci superare il dramma Bellissimo. Del terremoto di 3 anni fa. Ciao da Stefano, Emiliano Resiliente. A me invece ha colpito l'osservazione di Bruna al 349 238 6666, quindi sempre un messaggio. Ha detto: momenti difficili, qualcuno fino ad ora l'ho avuto, li ho sempre affrontati pensando a mia figlia con grande carica e pazienza, soprattutto senza perder tempo. Chissà che cosa ci dice questa specifica, questa precisazione. La analizziamo dopo? Volentieri, e chiudiamo con Roberto. Se gli alberi non si piegassero alle intemperie, sarebbero tutti morti. E noi andiamo ai mercati invece, che sono molto vivaci invece. Cuore e denari. Piace questo Sirtaki, ti vedo quasi come un monito. Chissà se i greci li possiamo definire un po' resilienti con quello che stanno sopportando in questo periodo. Secondo me alcuni saranno sicuramente resilienti, altro che, e altri impareranno a esserlo. Ma anche noi, perché poi la situazione greca a domino si fa sentire in tanti altri ambiti, anche sui nostri risparmi finisce. In questi anni gli scenari di crisi sono stati talmente tanti che siamo diventati certamente resilienti anche di fronte alle notizie di natura economico-finanziaria. E le ultime notizie non sono tanto rassicuranti, riguardano proprio la Grecia, perché è ufficiale da ieri: Atene non rimborserà il nuovo prestito, la nuova tranche che deve dare al Fondo Monetario Internazionale, 300 milioni di euro, scade il 5 giugno. Il premier greco Tsipras oggi incontra a Riga i leader europei, presenta il suo piano per la ristrutturazione del debito, che ormai dovrà probabilmente essere accettata. Vedremo che cosa succederà, noi commenteremo questa notizia ma anche tante altre notizie a partire dalle 11.45 con Vittorio Gaudio, amministratore delegato di Mediolanum Gestione Fondi, per il nostro spazio Investire Informati. Voi intanto cominciate a chiamarci all'800 24 0024. È un mondo difficile e vita intensa. È vero, è un mondo difficile, ma noi oggi vogliamo invitarvi a partecipare al nostro mini corso di resilienza. L'obiettivo è coltivare la flessibilità, la non resistenza di fronte alle avversità. Questo non vuol dire non soffrire, assolutamente, ma è il tentativo di sviluppare una serie di competenze che ci aiutano a trasformare i problemi in opportunità, in momenti di crescita. Non sono parole che vogliono rassicurarci, tendono a rassicurarci, ma proprio ad indicarci una possibile strada. Dobbiamo in qualche modo però allenarci. Oggi ci alleniamo con i consigli del dottor Michele Cucchi, naturalmente anche con con Maria Giovanna, la dottoressa Maria Giovanna Luini, che ci ha raccontato un po' la resilienza, no, sotto femminile, eh? Però vogliamo passare subito alla concretezza e quindi il nostro mini corso adesso parte dalle vostre testimonianze, dai vostri dubbi. Facciamo subito pratica. Abbiamo Paola da Ancona. Buongiorno Paola, benvenuta. Buongiorno, grazie. Grazie per essere con noi. Grazie a voi. Onestamente non avevo mai sentito parlare di resilienza e da questa mattina so di essere stata spesso resiliente e nella mia vita ho avuto, come tante persone, tante avversità, dal divorzio oltre 10 anni fa, la perdita del lavoro qualche anno fa. Mi sono dovuta reinventare delle situazioni molte volte. Secondo me condivido pienamente quello che diceva la dottoressa Luini, sì. Sì, sì, mi piego ma non mi spezzo, si dice ma non ci si crede fino in fondo. Si soffre molto, però si deve avere l'obiettivo e la tenacia e la grinta di sapere di potersi risollevare. Io ho sempre pensato che per ognuno di noi c'è una nuova possibilità. E per esempio con la perdita del lavoro a quasi 50 anni ho avuto e sto avendo la possibilità di reinventarmi in altre situazioni. L'ho dovuto fare aprendo una partita IVA, come oggi spesso accade, però sto imparando tantissime cose, quindi bisogna credere sempre che ci può essere qualcosa di buono da quello che di cattivo ci accade. Grazie Paola per questa bella testimonianza che, no, è persistente, persiste, tiene alto un pensiero, un messaggio, non si scoraggia e va avanti. Dottoressa Luini, mi ha fatto pensare al navigare a vista. Quando porti una barca, anche una barchina piccolina, ti trovi in mare e devi affrontare ciò che arriva, perché se non lo affronti è un problema, soprattutto quando il mare diventa un po' cattivo. Navigare a vista significa essere plastici, essere resilienti, perché devi anche accettare l'avversità, ma avere bene in mente uno scopo, cioè andare avanti e cavarsela. Mi ha fatto venire in mente questo. Può la meditazione migliorare la resilienza? Ce lo chiede Elena, dottor Cucchi. Sì, assolutamente sì, a due livelli. Il primo è perché andando in palestra, come volevamo portare i nostri amici, esattamente, sì. Una delle prime cose, uno dei primi attrezzi è proprio quello del rilassamento, per cui la meditazione in maniera indiretta è una prima forma di rilassamento, però la meditazione ci aiuta anche su un altro piano che costituisce la resilienza, che è la consapevolezza. Cioè ci aiuta a essere più consapevoli delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri, a metterli insieme e a contestualizzarli rispetto a quello che ci capita. Un'altra cosa importante, sulla base della testimonianza della telefonata, è ricordare che ci vuole pazienza. Cioè all'interno di un momento di sofferenza l'obiettivo non deve essere quello di uscirne il più velocemente possibile, per anche evitare la sofferenza o il dolore, che è un obiettivo comprensibile, però a volte ci fa prendere una scorciatoia, certo, che non ci porta lontano. Quindi invece, il non perdere tempo della nostra ascoltatrice di prima, forse il non perdere tempo è il non mandare la palla avanti, che è diverso. Invece avere pazienza vuol dire rifocalizzare gli obiettivi dell'oggi su qualcosa che è fattibile e quindi diciamo un po' cedere alle aspettative, quelle magiche, però avere la pazienza, perché il risultato della del processo di adattamento e di resilienza si vede nel tempo. Insomma, stare nel qui e ora anche aiuta. A me aiuta quando sono nei momenti difficili, devo affrontare, pensare che la nostra vita è fatta di tanti puntini, no? Siamo un puntino dietro l'altro. E quindi no, il puntino di domani è molto simile a quello di oggi, però è un leggermente diverso, è un avanzamento. A proposito di resilienza, io voglio parlarvi di una campagna che ha dato vita a una community di oltre 59.000 persone su Facebook, che racconta le storie di chi, pur soffrendo, ha trovato la forza di andare avanti senza arrendersi, quello di cui stiamo parlando oggi, fronteggiando, si dice così, in maniera efficace le difficoltà e sforzandosi, impegnandosi a viverle proprio come opportunità e non come minaccia. La campagna si chiama Io non sclero e parla di persone che si sono trovate nella vita ad affrontare una diagnosi di sclerosi multipla. La sclerosi multipla è una malattia neurologica autoimmune che colpisce nel cuore degli anni, quelli della progettualità, e colpisce soprattutto le donne, le giovani donne. Una malattia che diventa diventa compagna di vita e che ha uno sviluppo imprevedibile. In linea con noi abbiamo il piacere di avere Nicoletta Ortmann, referente medico scientifico di Onda, che è l'osservatorio sulla salute femminile, che ha promosso questa campagna. Buongiorno dottoressa. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito a intervenire. Dottoressa, Io non sclero è una campagna che ha avuto e sta riscuotendo grande successo, tra l'altro si è classificata terza al premio Arete 2014 nella categoria comunicazione sociale. Insomma, come diciamo Deborah e io, ha fatto centro. Ma quali sono secondo lei i motivi che l'hanno resa così popolare? Ma Io non sclero è una campagna che a noi è sempre piaciuto definire come una campagna di informazione ma anche di emozione, in cui sì, si parla di sclerosi multipla, ma la sclerosi multipla, la malattia, non è la protagonista. Sono protagonisti le persone, i malati, i loro familiari, le loro storie e soprattutto la loro forza di guardare avanti nonostante appunto debbano convivere con una malattia che è estremamente difficile, proprio perché, come diceva lei, impone di confrontarsi con una progettualità costantemente in divenire, anche perché la fascia di età di esordio è tra i 20 e i 40 anni, quindi si è nella fase più florida e produttiva della propria vita. Quindi sì, la chiave del successo di questa campagna è proprio il fatto che al centro sono le testimonianze, la voglia di raccontarsi in modo estremamente positivo e ottimista il proprio vissuto e i propri progetti. Il sito è stato, Io non sclero, è stato lanciato a settembre e nel giro di pochi mesi ha registrato decine di migliaia di visite. E per noi la cosa più bella è sicuramente è che questa nostra campagna e questa nostra iniziativa ha rivelato come queste persone siano mosse da una forza straordinaria nonostante una diagnosi di una malattia così difficile. E nonostante la diagnosi di sclerosi multipla continuano a guardare avanti con uno spirito davvero forte, che è anche lo spirito che quest'anno animerà la giornata mondiale della sclerosi multipla, che si celebrerà in tutto il mondo il 27 maggio e che per questa edizione avrà il motto Stronger than MS, quindi più forti della sclerosi multipla. Tra l'altro dottoressa, noi stiamo concludendo, sto rubando anche un minuto al traffico e al informati, ma lunedì prossimo a Milano ci sarà un grande evento che darà voce e spazio a queste storie molto toccanti di pazienti e dei familiari. È un evento aperto al pubblico a Milano, quindi possiamo fare gli inviti. Assolutamente, partecipate. Sì, inviti aperti a tutti, sia per i pazienti, per i loro familiari, ma anche chi ha voglia di informarsi su questa malattia. Appunto sarà lunedì 25 maggio a Milano in via Tortona al 37 a partire dalle ore 15 e sarà un'occasione per ripercorrere la storia della campagna Io non certo, sclero. Ma sì, noi metteremo tutte le indicazioni anche sulla pagina di Cuore Denari. Ringrazio la dottoressa Ortmann. Grazie Michele Cucchi, la nostra Giovanna Luini. La nostra Giovanna Luini, grazie per aver anche il nostro con dottor me. Michele Cucchi. Grazie. Buona resilienza. Esatto, adesso abbiamo il nostro Investire Informati, anche di fronte a questo argomento tutti decisamente resilienti, direi. A tra poco. Cuore e denari. E allora, come vi ho anticipato poco fa, eccoci ritrovati al nostro appuntamento del giovedì. Un occhio ai mercati finanziari, un occhio agli strumenti di investimento adeguati a gestire queste fasi di mercato sempre piuttosto complicate. Allora, di che cosa sto parlando? Lo ricordate bene? Investire informati. E allora, prima abbiamo fatto, grazie al Sirtaki, qualche considerazione sulla Grecia che torneremo a fare questa mattina, ma in realtà per i più attenti avrà notato che le fibrillazioni delle ultime settimane si sono concentrate sulle obbligazioni governative. Abbiamo notato a livello internazionale una generale risalita dei tassi di interesse su tanti titoli di Stato di varie nazionalità, per esempio il Bund tedesco, che noi guardiamo sempre con grande attenzione, il titolo di Stato a 10 anni, lo confrontiamo, Nicoletta, con il nostro BTP e da lì tiriamo fuori lo spread. Hai visto come ti ho risintetizzato? Perfetta. L'APC della finanza. Questo Bund è tornato come rendimento intorno allo 0,7% e noi potremmo dire, ma insomma, ma è bassissimo. In realtà a metà aprile aveva toccato lo 0,049, praticamente raso terra. Il BTP a 10 anni è tornato intorno all'1,8%, sono risaliti i tassi anche dei Treasury, che sono i titoli di Stato a 10 anni americani, si sono riportati intorno al 2,3%. 1,5% sui livelli di novembre 2014. Se andiamo poi alle scadenze più brevi, l'ultima asta di botta a 12 mesi del Tesoro italiano, settimana scorsa ha collocato 6,5 miliardi, anche in questo caso si è visto uno scattino del rendimento 0,027% rispetto allo 0,013 che era stato battuto il mese precedente, e anche in quel caso era il minimo storico. Allora, magari sono percentuali che dicono poco ai più a un piccolo risparmiatore, eppure vi posso assicurare che sono stati scostamenti che hanno messo sull'attenti gli investitori professionali, che poi prendono delle decisioni che ricadono anche su di noi. Vittorio Gaudio, amministratore delegato di Mediolanum Gestione Fondi, ben ritrovato e bentornato. Buongiorno da noi. A tutti, buongiorno agli ascoltatori. E allora, insomma, non ci si annoia in questo periodo, non solo perché guardiamo al sussulto dei rendimenti dei titoli di Stato, ma anche perché, mamma come sta piovendo adesso fuori a Milano, scusatemi, sono distratta un attimo, ma anche perché guardiamo alla Grecia. A catinelle. Ieri abbiamo saputo che Atene, alla fine, quello che era nell'aria lo ha dovuto ammettere, non riuscirà a rimborsare la tranche da 300 milioni di euro del prestito che deve al Fondo Monetario Internazionale. Questa è una scadenza fissata per il 5 giugno, ma non ci sono soldi, questo rimborso non si potrà fare. Dottor Gaudio, da cosa vuole partire? Dalla situazione greca o dalla situazione sui titoli di Stato? Ci facciamo un sirtachino oppure? Ma sì, partiamo dalla situazione greca. Beh, certamente siamo nel mezzo di queste trattative febbrili, certamente l'aspetto politico è evidente in ogni negoziazione, c'è un tira e molla da entrambe le parti e evidentemente i paesi nordici stanno cercando di essere intransigenti, e vediamo anche molta intransigenza da altri paesi, quindi non solo da quelli nordici, ma ad esempio il Portogallo che dice: io ho sopportato in questi anni l'austerità e adesso tocca anche agli altri. È anche vero che la Grecia comunque effettivamente ha subito l'austerità in maniera molto importante, pensiamo che il PIL greco è sostanzialmente 25-26% sotto il livello prima della crisi, quindi è veramente un effetto quasi da guerra in senso veramente stretto del termine. Comunque stiamo parlando di una necessità di rimborso di circa di 1,5 miliardi da parte della Grecia nei prossimi 15 giorni, quindi siamo veramente alle strette, vedremo che cosa accade. Io continuo a essere convinto, e effettivamente vedendo anche la situazione dei mercati, tutto sommato relativamente tranquilla rispetto a questo tema, che forse un accordo in extremis possa essere alla fine trovato. Sì, credo devo che dire sia che negli ultimi due giorni tutti. La borsa non si è particolarmente preoccupata dell'evoluzione di queste ma anche se poi torniamo appunto alla domanda che lei immagino mi vorrà poi fare, sì. Quindi relativamente titoli di Stato, le fibrillazioni sui titoli di Stato sono nati da altri temi, da altri argomenti, in effetti hanno poi toccato quello che un tempo era proprio il bene rifugio, quindi il Bund, e quindi effettivamente credo che la correlazione col tema greco in questo caso specifico non sia così non è così evidente. Allora, intanto segnalo ai nostri ascoltatori adesso di ascoltare bene le considerazioni che faremo, perché poi daremo tra le righe un'informazione che sarà l'oggetto più tardi del nostro domandone, quello che vi permetterà di guadagnarvi l'accesso alla nostra prestigiosissima libreria. Io suggerirò. Perché sempre tu hai che un io sacco capisca. Di libri del dottor Speciani che vuoi dare, lo so, ma ne ho tanti anch'io, nella mia libreria finanziaria. 800 24 00 24, non solo per cominciare a prenotarvi per il domandone che ancora non sapete, ma anche per commentare gli altri temi che abbiamo già anticipato. Dottor Gaudio, prima di andare al tema obbligazionario, magari lo affrontiamo nella seconda parte, perché lì è importante fare una riflessione un po' approfondita. Abbiamo visto in realtà in borsa un bel movimento positivo un paio di giorni fa, quando ci sono state le dichiarazioni del numero 2 della Banca Centrale Europea, quindi è il braccio destro o sinistro, non lo so, di Draghi. Questo signore si chiama Benoît Cœuré, che ha fatto capire che la Banca Centrale Europea intensificherà gli acquisti di titoli di Stato a maggio e a giugno per evitare una possibile crisi di liquidità in estate. Sapete che c'è il quantitative easing, la BCE compra titoli di Stato e anche altri asset per circa 60 miliardi al mese, ma ne comprerà un po' di più tra maggio e giugno. Dottor Gaudio, ci aiuta a capire il senso di questa dichiarazione, il senso di questa manovra, e non è che ci porterà un'altra estate calda sul fronte spread? Ma io credo che questa dichiarazione sia stata in qualche modo anche legata appunto agli avvenimenti che abbiamo visto sui titoli di Stato, quindi la necessità da parte della BCE di togliere i timori che in qualche modo la BCE potesse anticipare la chiusura del famoso QE prima del settembre 2016, perché c'erano anche questi timori, visto che alcuni dati sull'economia europea stanno andando bene, e allora i risparmiatori diciamo internazionali, grandi investitori, hanno cominciato a temere che forse la BCE potesse chiudere questo programma anche prima. C'è stato poi il rialzo dei prezzi del petrolio molto importanti, e quindi si è avuto anche una ripresa di attese di inflazione. Ecco, vedendo tutto questo, appunto, i mercati obbligazionari hanno reagito male, e sostanzialmente Benoît Corré è stato portato a tranquillizzare i propri mercati per evitare che il rialzo dei rendimenti continuasse. È un po' come a dire: noi ci siamo, ci saremo. Devo dire, questo atteggiamento della BCE lascia un po' perplessi. Ha prestato il fianco a molte riflessioni, anche sul tema della sua indipendenza. Esattamente. Ci ragioniamo tra poco.